La vita è una ruota che gira e che va. La vita è una ruota che gira e che va. Proviamo a cercare una nuova realtà. Proviamo a cercare una nuova realtà. Stare in libertà costa la metà. La vita è una ruota che gira e che va. Il mondo è una cosa inventata per noi. Il mondo è una cosa inventata per noi. Se non ci credete è peggio per voi. Se non ci credete è peggio per voi. Il sistema c'è per scoprire che la ruota puoi farla girare da te. La ruota puoi farla girare da te.